Infine continuammo ad andare torno torno all'interno. Il cerchio non si squaderna e il quadrato non si incerchia, ma un solo nome gira come gas sugli anelli di Saturno. Poi sarà fatta notte, poi sarà fatto giorno, e andammo disperati tondo tondo come una cavalla nell'arena che mentre dispera si doma legata al collo. Poi sarà fatto giorno, e quindi non è detto che ne uscimmo, non ce la facemmo a rivedere le stelle, la vastità del cielo. Appiccicato al corpo sono luce, umida come il miele, gelatina, l'ambra slabbrata a inquadrare il suo piccolo insetto, il corpo disteso sul letto, fermo, supino, sudato, gli occhiali storti sul naso, la faccia girata ai lampi dello schermo, alla sordina che fruscia come un'ala di civetta, e qualche grido, da sotto, da dentro dentro ciò che è dentro il letto, quell'altro chiuso nella sua vignetta, quell'altro che nemmeno più si sveglia a guardare la stanza. Lo scrittoio, lo schermo, gli scaffali, la finestra sul cielo nero dove scioglie l'alba, un altro fra le labbra ad una pietra d'ambra come un insetto rinsecchito nelle lenzuole. Il suo sudore, o nel silenzio che lo fa altro ancora, chiuso più dentro dove non si aspetta se non che si richiuda la vignetta, ma così stretta, così tutto intorno, che non c'è sonno, non ce n'è nessuno, perché il silenzio è fermo come l'ambra, e non c'è stanza, finestra, scrittoio, e non c'è tu che torni, solo l'afa, il sudore che stagna, il sogno senza sogni da cui destarsi nella testa, gli occhiali storti sul naso, le orecchie senza suoni, la bocca che respira, la lingua grossa a leccare saliva per le labbra indurite, come un'ambra che trattenga parole senza sogni o chi possa riaprire la vignetta, quell'altro dentro, sotto, nella bocca, slabbrata come l'ambra su un insetto, quel piccolo nessuno, quello vivo nel sogno di quell'altro che ora dorme, dorme sognando che qualcuno dorma, qualcuno a fine luglio nella stanza che sono mesi ormai che s'è deserta, giorni e giorni di polvere, di vuoti, di cose che non vengono toccate, di passi insonni infine revocati, di vite rasciugate in una notte, unica e ancora replicata notte di novembre, di sempre, senza sogni, per l'ultima strisciata sulla pagina. E quello che nemmeno più si sveglia, dorme, e sogna qualcuno che lo sogni, magari perso nei suoi sogni ancora, la stanza, il pavimento, gli scaffali, lo schermo acceso del televisore, le foto con i bordi nicotina, le sedie vuote, e l'alba senza brezza, e fra le labbra, nell'ambra slabbrata della bocca, una lingua che farfugli, nel sogno senza sogni, una richiesta, qualcosa per uscire dal programma, fuggire dalla testa, una carezza, ti prego, svegliami, svegliami, mamma.